la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, grazie a chi ci segue in diretta, a chi ci scarica e ci poi ascolta in podcast. In questo 26 di giugno, giovedì, siamo in diretta a 16.35, primi 22 secondi dagli studi di Radio 24 di Milano. Il punto subito di oggi per le vostre telefonate all'800 24 0024, gli sms al 349 238 6666. Oggi parliamo di municipalizzate, quindi le migliaia di società in Italia controllate dalle autonomie, comuni, regioni, province. La domanda che vi faccio è quanto ne siete soddisfatti. So che è un tema su cui più volte, soprattutto in alcune città dove si addensano i problemi italiani, Roma, Napoli, Palermo, ne abbiamo già parlato, però è un tema sul quale torno. Perché? Perché l'impressione negli anni, e quindi chiamateci per dire come la pensate, se pensate che è giusto che resti tutto pubblico dopo il referendum dell'acqua, anche per gli altri settori in cui c'è l'offerta di servizi, ma comunque come misurate negli anni ciò che pagate rispetto a ciò che vi viene dato. Perché ci torno sopra? Perché sono anni, mentre si sono messe in moto in maniera discutibile e se ne discute molti pezzi di riforme italiane, quelle istituzionali le abbiamo viste, quelle della giustizia trovate sui giornali in anticipazione dell'intervento che ci sarà lunedì prossimo, eccetera eccetera. Per quello che riguarda questo pesante blocco dello Stato, pesante perché non riusciamo neanche a capire quante sono in totale le migliaia di società controllate e partecipate pubblicamente dalle autonomie, perché pensate che sono più di 7.000 solo quelle di primo livello, secondo i criteri del Tesoro, sono un po' meno secondo i criteri del CERVED, sono pochi meno secondo i criteri del rapporto annuale che redigono insieme Unioncamere, che dà la base dati, e Mediobanca, che analizza i bilanci. Non sappiamo quante sono, ma sono almeno 7.000 solo quelle di primo livello. Eppure sono anni che governi di tutti i colori e di tutti i tipi, governi tecnici, governi di centrodestra, poi governi di nuovo di centrosinistra con Letta e con Renzi, dichiarano o provano in concreto anche con strumenti legislativi a fare in buona sostanza due cose: a tentare di aprire lo spazio per la concorrenza, per la messa a gara dei servizi rispetto alle tante società che restano in house, a cui sono affidate direttamente dal concessionario pubblico che contemporaneamente controlla anche la società a cui dà il servizio, e poi per tentare di limitare le perdite, almeno quelle più rilevanti, che ci sono e come in queste 7.000 società che ne controllano a propria volta e partecipano altre migliaia e migliaia. Eppure di fronte a questo si rimbalza, perché sia i tentativi di apertura del mercato, cioè di liberalizzazione, sia quelli volti a diminuire le perdite e a quindi a far dismettere o accorpare le società in cui si perde, regolarmente non ottengono nulla di fatto. Pensate solo che doveva scattare l'obbligo entro il settembre del 2013 da parte delle autonomie e soprattutto dei comuni di dismettere o accorpare, quindi intervenire in tutte le società che erano in perdita da almeno 5 anni, e questo avrebbe significato, diceva il Tesoro, che avrebbero dovuto essere dismesse o comunque sparire accorpate 1.472 società, quindi con 7.481 comuni interessati, diceva il Tesoro all'inizio del 2013, quando questa disposizione fu assunta nella legge di stabilità 2013, ma il risultato è che a settembre del 2013, col piffero che era avvenuto, niente di tutto questo, tanto che nella legge poi di stabilità del 2014 si è dovuto tornare sul punto dicendo vabbè, facciamo finta di niente, la legge è praticamente come se non fosse mai entrata in vigore. Questo per dirvi solo che cosa è avvenuto nell'ambito del tentativo di diminuire, facendo dismettere, le società che perdono. Niente, un nulla di fatto è avvenuto, esattamente rimbalzato contro un muro. Cose però analoghe sono avvenute negli anni per il tentativo di estendere l'area della offerta di servizi messi regolarmente a gara, perché anche da questo punto di vista le resistenze di migliaia di comuni, province e regioni che hanno società che fanno affidamento diretto, hanno di fatto molto limitato l'estensione della messa a gara. Io mi limito a dire che è uscita una settimana fa, proprio il 14 di giugno, un riepilogo non dei risultati economici di tutte queste 7.000 società, ma Mediobanca ha curato un'accurata analisi dei bilanci dello stato patrimoniale delle 67 società locali maggiori, quindi interessano poco più di 110 comuni, e quello che ne esce è devastante, perché ci sono due settori in particolare, mentre nella media vanno bene o molto bene le municipalizzate energetiche, ci sono società come A2A, quotata grande, che fatturano miliardi e guadagnano centinaia di milioni, però ci sono due settori precisi in cui da sempre, nella generalità, al nord come al sud, si perde a bocca di barile, e questi due settori sono il trasporto pubblico locale, dove solo nelle società del trasporto pubblico locale, tra le 67 maggiori analizzate da Mediobanca nel 2012, si è perso più di un miliardo di euro, malgrado 4,4 miliardi di euro in quello stesso anno di contributi pubblici versati al trasporto pubblico locale. E il secondo settore in cui si perde bocca di barile è quello dell'igiene urbana e del trattamento rifiuti, dove solo tra le maggiori si sono persi 335 milioni nel 2012. Ripeto, se voi estendete questi dati a tutte le 7.000 società, avete nel trasporto pubblico locale e nel trattamento rifiuti e igiene urbana perdite di diversi miliardi. Tenete conto poi che ci sono delle società in cui poi si addensa il problema in maniera epocale, società come l'ATAC dei trasporti romani, come l'AMA a Roma, come la SIA a Napoli, eccetera eccetera. Quelle da sole contribuiscono allo sbilancio generale nazionale per miliardi. Ecco, questa è la situazione, ed è una situazione però in cui la domanda diventa: che cosa in concreto possiamo pensare di fare, visto che è fallito fino a questo momento sia il tentativo di estendere la concorrenza al mercato, sia quello di intervenire centralmente per ridurre tutte le società, almeno quelle che sono in perdita? Ecco la riflessione, e per questo abbiamo invitato un ospite che domani interviene a un convegno organizzato da Confindustria Veneto, esattamente sul punto delle municipalizzate, delle società pubbliche locali nel settore del trattamento rifiuti in Veneto, ponendosi il problema esattamente di che cosa si può fare alla luce dell'ordinamento attuale. Tenete conto per esempio che in Veneto, proprio in Veneto, fino a pochi mesi fa i cittadini potevano andare su un sito, il sito del Consorzio Padova Sud, e andare a vedere i confronti tra tutte le tariffe esattamente nel settore idrico del trattamento rifiuti. Pensate che le società pubbliche venete dello stesso settore hanno diffidato il Consorzio Padova Sud, che ha dovuto eliminare questo raffronto dal suo sito, e di qui alcune aziende private che operano nel settore poi hanno fatto anche un esposto alla Procura della Corte dei Conti per segnalare l'anomalia di questo intervento, che era stato fatto da ETRA. ETRA, che è l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato, il servizio rifiuti nell'area che va dal Altopiano di Asiago al Bassanese. Questo, pensate a cosa si arriva, al fatto che non ci possono nemmeno dare i dati comparati di quanto paghiamo rispetto a quello che otteniamo in cambio. Allora, per farci spiegare dal suo punto di vista, ma un punto di vista tecnico, ordinamentale, giuridico, cosa si può fare nell'ambito della concorrenza oggi e del rimedio dal centro dei soldi che si perdono, per aumentare quindi l'efficienza, è con noi il professor Jacopo Bercelli, che insegna diritto amministrativo all'Università di Verona. Buon pomeriggio e grazie, professore. Buon pomeriggio a voi. Allora, spieghiamo innanzitutto a chi è a casa ed è convinto magari che dopo il referendum sull'acqua tutto deve essere tutto pubblico, quale concorrenza, di cosa stiamo parlando. Nella realtà, nel nostro ordinamento, a oggi, dopo le sentenze della Corte, le pronunzie eccetera, questa offerta di servizi pubblici locali quanto è vincolata ancora all'affidamento diretto o rispetto a volontà invece di estendere la concorrenza con le gare? Allora, la cosa fondamentale da dire è che in questo settore esiste ed è vigente e cogente il principio di tutela della concorrenza. Cioè, anche dopo lo svolgimento del referendum sull'acqua pubblica, che ha abrogato l'articolo 23 bis, che aveva, diciamo, imposto sempre e comunque lo svolgimento di gare per l'affidamento dei servizi, marginalizzando completamente la forma di gestione in house, nonostante il referendum sull'abrogazione di questa normativa, tuttora è tuttora vigente nel nostro ordinamento il principio di tutela della concorrenza. Quindi la conseguenza è che è vero che i comuni hanno la possibilità di scegliere sia di affidare i servizi con gara, sia di affidare i servizi attraverso società in house, ossia senza svolgimento di alcuna gara. Però non è dubbio che essi debbano dare innanzitutto la prevalenza alle modalità di affidamento con gara e possano ricorrere alle società in house soltanto nei casi in cui, diciamo, il mercato non sarebbe in grado di rispondere alle esigenze della propria collettività. E quindi da questo punto di vista la risposta che dà lei, da studioso del diritto, è: come mai, quando i governi ci hanno provato, è apparso chiaro che rimbalzava la faccenda? Ma guardi, effettivamente dal 2001 ad oggi quasi tutti i governi hanno introdotto una normativa, sempre in attuazione dell'ordinamento comunitario, per dare maggiore forza al principio di tutela della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali. Però bisogna dire che gli enti locali, in quanto sono i proprietari di queste società in house, diciamo, e tante volte gli amministratori di questi enti locali poi fanno una loro carriera in queste società in house, purtroppo hanno un loro interesse a mantenere in vita queste società in house e quindi hanno sempre cercato di opporsi all'introduzione di un forte principio di tutela della concorrenza in questo settore. Il governo era riuscito in realtà, dal 2001 ad oggi il governo e il Parlamento nazionale erano riusciti in realtà a introdurre questo principio di tutela della concorrenza, però lì veramente c'è stato lo svolgimento di questo referendum sull'acqua pubblica, che sotto questo slogan dell'acqua pubblica ha eliminato il principio della gara per tutti i servizi pubblici locali e quindi anche per esempio per il servizio di gestione dei rifiuti. E quindi, diciamo, questo ha rappresentato un ostacolo forte sul piano della liberalizzazione. Bisogna dire che però successivamente il governo ha dettato una norma molto chiara, che è l'articolo 34, commi 20 e 21 del decreto legge numero 179 del 2012, che è ancora la norma oggi in vigore, che rappresenta la norma base di riferimento per la disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in cui si stabilisce che quando un ente locale deve deliberare un nuovo affidamento di un servizio pubblico locale, deve scegliere la forma di gestione di un servizio pubblico locale, ha un preciso obbligo di condurre un'istruttoria tecnico-economica approfondita, di operare un'indagine di mercato, di costruire una relazione tecnico-economica che poi va pubblicata sul sito internet dell'ente locale per dimostrare qual è l'opzione di gestione migliore sul proprio territorio. Le faccio una domanda: è quello che avviene nella sua esperienza, ecco, o questo obbligo è disatteso? Purtroppo, come spesso avviene in Italia, diciamo, la norma, anche se la norma è scritta bene, questa norma pone una grossa responsabilità in capo ai singoli comuni, anche ai piccoli comuni, che probabilmente hanno degli uffici tecnici comunali che non sono oggettivamente attrezzati in grado di farla questa analisi. E quindi non la fanno. Allora, aspetti che la fermo, perché siamo in ritardo, abbiamo 60 secondi di informazione stradale in obbligo e siamo già in ritardo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:49:54. Stiamo parlando delle municipalizzate per rispondere a delle domande che mi sono venute nei giorni scorsi. Molti ascoltatori erano convinti che non ci fosse più, dopo il referendum dell'acqua, il principio generale nel nostro ordinamento, come principio vigente, ribadito dalla legge dopo il referendum, dell'obbligo di messa a gara nell'offerta di servizi pubblici locali. E invece il professor Mercelli vi ha appena spiegato che questo obbligo è stato ribadito ed è vigente. Qualunque comune, provincia, regione, per l'offerta di messa di servizi pubblici voglia procedere, deve fare una relazione tecnica in cui si spiega, se non fa una gara aperta, per quale ragione economica è giunto alla conclusione, magari stimando l'ambito di mercato ottimale o subottimale o per qualunque altra ragione, di invece procedere con un affidamento in house. Ed è esattamente questo obbligo che noi come cittadini, come gente che paghiamo le tariffe, che paghiamo le tasse, dovremo instancabilmente accertarci che venga seguito a livello locale. E invece questo obbligo non viene seguito, dice il professor Berceri. Giustamente, i piccoli comuni magari non hanno gli uffici tecnici per fare queste relazioni, però guardate che capita nei grandi. Io voglio ricordarvi una cosa, cari ascoltatori: nelle sole 67 società maggiori dei 115 soggetti tra comuni, regioni e province che le controllano, 67 su 7000, ecco, in quelle sole 67, i 115 tra comuni, province e regioni che le controllano hanno nel solo 2012 effettuato 2300 nomine, di cui 1000 apicali. Se voi estendete queste cifre, quindi nominati tanto in quanto amministratori o in quanto dirigenti, allora tra, se voi estendete alle 7000 società questa stima, tenuto conto che qui abbiamo le maggiori, poi c'è un'infinità di piccole, noi abbiamo un esercito di 40-50.000 nomine annuali, annuali, da parte del sistema delle autonomie nell'universo delle società controllate. Ripeto, tra 45 e 50.000 nomine annuali per un complessivo di nominati nell'arco dei 4 o 5 anni di svolgimento del mandato, che sta tra i 70 e i 90.000 soggetti. Ecco, questo vi dà l'idea da dove viene la resistenza al sistema dei partiti, perché stiamo parlando di un canale dal quale poi si va a fare politica, o trombati della politica che poi entrano lì, e si tratta di consensi, di interessi. Detto questo, a noi dovrebbe interessare avere un chiaro meccanismo comparato che ci dica l'efficienza rispetto poi a un tipo di affidamento di gara, a quello che paghiamo come tariffa e a quanto diamo come contributi della fiscalità generale, visto che qua il più delle volte l'offerta di servizio non si remunera per quello che raccoglie, ma dobbiamo pagarla poi con i contributi generali. Ecco, allora vediamo come la pensano alcuni ascoltatori. Roberto da Milano, prego Roberto. Buonasera a voi. Io in realtà sono un operatore di settore, nel senso che sono il presidente e amministratore delegato di una società che fa selezione per conto delle municipalizzate o di coloro che mettono in gara i prodotti, e sono anche il presidente di un'associazione con sede a Roma che raggruppa i selezionatori di prodotti. E nella sua esperienza? Nella mia esperienza io vedo una grandissima difficoltà per il futuro per il nostro settore, che vorrei ricordare è un settore totalmente autogestito, nel senso che nessuna delle nostre aziende ha fatto al momento attuale ricorso a partecipazioni da parte di enti piuttosto che statuti, piuttosto che soldi dati a fondo perduto. Non sono state nemmeno attuate formule per la salvaguardia dei posti di lavoro, e di conseguenza è tutto capitale totalmente privato che viene messo. Quindi lei dice il fatto che le municipalizzate non siano aperte a concorrenza di mercato danneggia voi privati nel settore. Questo in sintesi l'intervento di Roberto. Sentiamo Antonio da Lecce, rapido Antonio. Che pensa? Salve, buongiorno. Io ho una mia esperienza personale. Secondo me, al di là della forma migliore di legge per l'attuazione chiaramente della liberalizzazione dei servizi pubblici, oggi vi è una costituzione di lobby sia a livello locale nel sistema degli enti pubblici, sia a livello anche di aziende che hanno sempre usufruito nella gestione dei servizi e che difficilmente oggi lasciano il posto a idee innovative o a imprese nuove. E allora, e questa è la constatazione della difficoltà, Antonio. Professor Bercelli, che facciamo? Ci rassegniamo? Lei che dice? No, innanzitutto adesso, per esempio, per il servizio di gestione rifiuti, nuovamente il legislatore impone di costituire ambiti territoriali ottimali, nell'ambito dei quali i comuni si devono consorziare o associare. Questo deve permettere ai comuni di organizzare degli uffici tecnici, diciamo, di bacino, che siano maggiormente attrezzati per superare le difficoltà dei piccoli comuni. Lei lo sa che nel settore idrico l'esperienza del Lato è stata a macchia di leopardo in tutta Italia? Lo so, purtroppo, però non si può fare niente. Nel senso che l'unica via che può seguire il legislatore è quella di imporre questi ambiti territoriali ottimali, delle organizzazioni sovracomunali che si possono strutturare in maniera da essere anche come bacino di offerta più efficienti economicamente. Io mi chiedo però, cittadini in ascolto, se la legge avesse riguardato un obbligo per noi, quello per i comuni nel 2013, e non l'avessimo rispettata, voi pensereste che ci avrebbero multato e carcerato? O avrebbero fatto come nella legge 2014 dicendo che non faceva niente? Questa è la differenza. Continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.